Iran e Iraq, le relazioni pericolose, Francia, Gattopardo politico. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. According to police, Hisham al-Hashemi was shot near his home in the Iraqi capital. Government officials have described the attack as a targeted killing. The Iranian-Iraqi relationship since the downfall of Saddam Hussein has been improving dramatically. Welcome back to our place of work. Buona giornata e bentrovati, ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Anche quest'oggi ruotiamo il mappamondo a caccia di storie e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo. Per farlo con me ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Oggi in assistenza Luca Cremonese e in regia c'è Roberta Frisani. 349-238-6666, il numero lo conoscete, le regole anche sono semplicissime per fare cosa, domande, commenti, critiche, via sms e via whatsapp, sempre nell'alveo di una pacatezza e una sobrietà che ormai avete capito, cerco di sottoporvi, quindi niente commenti razzisti, sessisti, xenofobi, per il resto liberissimi come state facendo e avete fatto anche sui social di criticare i contenuti di questa trasmissione. A proposito di social, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24 ovvero Giampaz. Detto ciò, i nostri dossier. Prima di andare al cuore di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, lo avete sentito dai titoli, faremo il punto sulle relazioni tra Iran e Iraq e poi vi racconteremo il nuovo governo francese, un rimpasto politico per sintetizzare, cambia tantissimo, forse per non cambiare nulla. Detto ciò, su cosa stiamo lavorando? Io e tutta la redazione di Nessun Luogo Lontano. Continuiamo ovviamente a tenere d'occhio la situazione a Hong Kong, che si tinge di social perché in relazione alla nuova legge sulla sicurezza nazionale voluta da Pechino, i cui esiti per il momento sicuramente per i cittadini e il fronte democratico di Hong Kong potrebbero essere nefasti, ma vedremo nei prossimi giorni e settimane. Dicevo, in reazione a questa nuova legge TikTok ha annunciato il ritiro dagli app store di Hong Kong, mentre Zoom smetterà di ottemperare alla richiesta da parte delle autorità cittadine di condividere i dati degli utenti. È guerra social, in buona sostanza. TikTok peraltro ha deciso di interrompere la diffusione del social stesso in relazione agli eventi ultimamente accaduti. Facebook, Microsoft, Twitter, Google e Telegram hanno già affermato di aver messo in pausa tutte le richieste che arrivano dalle autorità di Hong Kong per andare a carpire e utilizzare le informazioni degli utenti prima di darli. Vogliono avere un parere legale per capire se questa richiesta possa andare a ledere diritti di qualsiasi tipo. L'ultima mossa è quella di TikTok. Forse alcuni di voi già conoscono questa piattaforma, è una piattaforma cinese, si condividono sostanzialmente video. Dopo un inizio qualche tempo fa piuttosto frivolo, se mi consentite il termine, TikTok si è invece arricchita anche di contenuti prettamente politici, ed è questo il timore evidentemente dell'azienda cinese nel lasciare libertà ai cittadini hongkongesi di utilizzarla. La decisione di TikTok è arrivata dopo che il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno certamente valutando se oscurare le app dei social media cinesi, incluso appunto TikTok. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, fra pochissimo naturalmente ve ne darò conto, non prima però di avervi raccontato cosa sta accadendo in Bolivia. Ne dà notizia il quotidiano spagnolo El País. Il procuratore del Dipartimento di La Paz ha formalmente accusato di terrorismo l'ex presidente Evo Morales e ne ha chiesta la detenzione preventiva per il suo coinvolgimento nelle proteste avvenute in tutto il paese dopo che Morales, accusato di frode nelle elezioni dell'ottobre del 2019, aveva abbandonato il paese. Il processo in atto si basa su un audio rilasciato a novembre 2019 dal ministro degli interni Arturo Murillo, in cui si sente l'ex presidente ormai Evo Morales parlare con un leader cocalero chiedendogli di organizzare, nel quadro di conflitto con il governo transitorio al potere, un blocco della distribuzione di prodotti alimentari alle città capoluogo delle province boliviane. La risposta di Morales non è tardata, attualmente l'ex presidente si trova in esilio in Argentina, ha detto che questa accusa è illegale e incostituzionale e ha garantito al contempo che sia un'ulteriore prova della sistematica persecuzione politica del governo attuale, aggiungendo poi la democrazia e lo Stato di diritto torneranno presto in Bolivia. 16:13 secondi in questo esatto istante. Questi nostri dossier internazionali, ve lo ricordo, sono i fatti, le notizie sui quali noi stiamo lavorando qui a Nessun Luogo Lontano, e adesso è il momento di andare in Francia. Andiamo in Francia per raccontarvi che cosa. È il nuovo ministro, il nuovo governo, perdonatemi, francese. 31 i ministri, 17 donne, 14 uomini, con alcune caratteristiche che cercheremo di delineare e sottolineare col prossimo ospite che si occupa di Francia da parecchi anni. Tra le nuove nomine ce n'è una in particolare che ha destato particolare scalpore, soprattutto tra gli analisti e i commentatori politici. Il ministro della giustizia sarà infatti Éric Dupond-Moretti, lo pronuncio alla francese, origine italiana, che è uno tra gli avvocati penalisti più famosi in Francia, ma che si era distinto in passato per alcune dichiarazioni piuttosto provocatorie. Voleva sostanzialmente cancellare dal panorama politico francese il partito di Marine Le Pen, aveva attaccato duramente la magistratura e ora si trova invece a condurre i giudici, essendo lui appunto il nuovo ministro della giustizia. Vedremo quanto riuscirà a limare i suoi attacchi e anche un certo livore che ha dimostrato in passato verso la magistratura definita codarda, incompetente e inaffidabile. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Francesco Maselli, giornalista dell'Inchiesta e corrispondente dall'Italia per il giornale francese L'Opinion. Francesco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, nei titoli abbiamo tentato di battezzare questo nuovo governo sorto da pochissimo, fra l'altro velocità record, perché Castex è stato davvero veloce a sottoporre la lista dei nuovi ministri, una sorta di Gattopardo in salsa francese. Cambia un po' tutto, ma forse per non cambiare nulla. Ci aiuta a capire il senso di questo, della nascita di questo nuovo governo? Sì, cambia in realtà molto poco ed è anche abbastanza rivendicato il fatto che cambi poco, nel senso che se voi vedete i ministri, la maggior parte sono stati confermati, ci sono, come dicevi tu, poche novità abbastanza provocatorie, sì. Però non cambiano in realtà la sostanza di quella che è la politica di Emmanuel Macron, cioè cercare di trasformare la Francia in senso più liberale. Sicuramente con l'appoggio un po' culturale, un po' politico del centrodestra moderato. È vero che nel governo ci sono una serie di esponenti della sinistra che sono stati confermati, in particolare il ministro degli esteri è un ex socialista, ci sono anche la ministra della difesa e poi è stata nominata Barbara Pompili, o Pompili se lo vogliamo pronunciare alla francese, ministra dell'ecologia, ed ha un ruolo molto alto nel protocollo del governo. E sicuramente lei viene dalla sinistra, è stata iscritta ai Verdi, quindi un po' di sinistra c'è sempre, come dall'inizio, però poi in realtà il cuore del governo, cioè il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia, è affidato a esponenti dell'ex centrodestra. Tra l'altro c'è anche molto Nicolas Sarkozy in questo governo, molte persone vicine all'ex presidente, questo pure è molto interessante. Insomma, ci fa capire che cambia forse quello che lei incarna, cioè il primo ministro, che è sicuramente una persona molto diversa da quello che c'era prima, proprio dal punto di vista caratteriale, sì. Però in fondo la traiettoria politica è la stessa. Ecco, peraltro parlavi della vicinanza, come dire, a Sarkozy, lo stesso Jean Castex era stato suo vice segretario generale, no, per circa un annetto. Con Francesco Maselli, firma dell'Inchiesta e fa corrispondenza dell'Italia per il giornale francese L'Opinion, stiamo cercando di capire cosa è cambiato nel nuovo rimpasto governativo francese e cosa potrebbe cambiare anche per la politica francese. Proprio in un pezzo che hai pubblicato ieri sul tuo giornale, Francesco, ribadivi una serie di punti, però prima di affrontarli vorrei che ci aiutassi a capire se questo rimpasto è frutto anche della batosta della Repubblica en Marche, il partito di Macron, alle ultime consultazioni legislative. È stato in qualche modo gli è stato imposto dall'elettorato anche quest'onda verde che ha tanto impressionato, no? come avanzata in termini proprio di percentuali, quindi un rimpasto che doveva essere fatto? Ma in realtà se ne parlava già da prima, da molto tempo in verità, si parlava di eventuali divisioni con il primo ministro, non si sapeva appunto che fine avrebbe fatto Edouard Philippe, che poi tra l'altro è stato candidato e ha vinto al Havre, che è la sua, sì, che è la sua città. Quindi in parte era già previsto, quindi non si può dire che gli è stato imposto dal risultato elettorale. Probabilmente il risultato elettorale, che è stato abbastanza duro per il partito di Macron, ha accelerato le cose, e quando venerdì Philippe si è dimesso nessuno se lo aspettava. Cioè si sapeva che a un certo punto durante l'estate il governo sarebbe cambiato, ma non così presto. Probabilmente quella sconfitta ha accelerato un processo già in atto. E forse, perdonami, sì, ti interrompo Francesco, anche la vittoria alle Havre di Philippe ha in qualche modo ingolosito, no, una diversa poltrona per l'ex primo ministro. Un paio di figure controverse, Maselli, che hai analizzato nell'articolo che citavo poc'anzi. Innanzitutto il nuovo ministro della giustizia, Éric Dupond-Moretti, avvocato penalista, che in passato si è distinto per attacchi piuttosto feroci alla magistratura francese. E adesso come la mettiamo? Come si fa a combinare un'anima da guerrigliero così potente con invece incarichi istituzionali? Tu citi la sua anima da guerriero, proprio il primo discorso che ha fatto durante il passaggio di poteri ieri sera, ha detto: io non sono qui per fare la guerra a nessuno, ma sono qui per cercare di cambiare la giustizia tutto insieme. Quello che è certo è che lui ha sempre detto che la magistratura francese così com'è non funziona, bisogna cambiarla, bisogna evitare che la presunzione di innocenza venga calpestata. Lui addirittura la settimana scorsa ha fatto un ricorso contro la procura finanziaria, perché lui stima di essere stato ascoltato con un'intercettazione illegalmente, un'intercettazione nella quale era ascoltato l'avvocato di Sarkozy, ecco, che torna sempre questa ombra lunga, esatto, quindi di cui lui è molto amico, per cui diciamo sicuramente ci saranno delle frizioni. Il sindacato e la magistratura ha fatto sapere che per loro è un attacco diretto da parte del presidente. In realtà sicuramente è diverso fare l'avvocato e quindi esprimersi sopra le righe in modo anche un po' strumentale rispetto alla professione che fai, e un'altra cosa è gestire un ministero. Quello che è sicuro è che lui è anche molto controverso per una serie di posizioni che ha preso dal punto di vista sociale. Per esempio ha detto che il movimento MeToo ha delle sfumature da maccartismo, e ha detto che stiamo entrando nella dittatura della trasparenza. Proprio scritto un libro che si chiama Il diritto di essere liberi, in cui si è molto scontrato con i movimenti femministi. Quindi diciamo è un profilo che fa pensare che ci saranno molte polemiche. Un profilo che ha fatto discutere, sicuramente farà discutere, vedremo quanto le nuove vesti istituzionali tratterranno un po' questa sua anima provocatoria. Stavamo parlando di Éric Dupond-Moretti, e poi c'è un'altra figura che era l'ex portavoce di questo governo, Sibeth Ndiaye, che possiamo dirlo, Francesco Maselli, una super gaffeuse, ne ha dette un po' di tutti i colori, e ricordavamo, ci siamo sentiti poc'anzi, Francesco, anche una gaffa che riguardava noi italiani. Lei aveva detto che insomma gli italiani non avevano gestito bene la pandemia, e che il fatto che noi prendevamo la temperatura a chi arrivava non serviva a niente, insomma attaccando proprio direttamente la strategia italiana, quando sembrava a un certo punto che la Francia dovesse seguirla, e lei diceva: no, noi non seguiremo l'esempio italiano, tutti gli italiani non hanno capito niente di quello che stava succedendo. E poi in realtà puntualmente la Francia ha preso tutta una serie di misure che andavano verso quelle che prendevamo noi, che è stato banalmente a un certo punto decretare un lockdown molto molto duro come abbiamo fatto noi. Ma in generale comunque lei si è distinta per tutta una serie di gaffe. Addirittura all'inizio della pandemia aveva detto: non usate le mascherine perché non servono a niente, che è una cosa che le è stata molto ovviamente accollata, perché chiaramente poi a un certo punto invece il governo ha cominciato a dire: no, mettetele ovunque, e quindi questo video girava in continuazione di lei che diceva no, non bisogna usarle, non servono a niente. Insomma, abbastanza irresponsabile per quanto eravamo un po' all'inizio del lockdown. Diciamo che sul coronavirus tante figure politiche hanno fatto degli scivoloni notevoli, e su questo non c'è dubbio. Francesco Maselli, approfitto della conoscenza che hai della Francia e del nuovo governo, lista dei ministri presentata a tempo record da Jean Castex, uomo vicino a Sarkozy, sostituisce Philippe che va a governare Le Havre, insomma un Macron che cambia un po' tutto, un po' meno diciamo di quello che ci si aspettava forse, lo raccontava Francesco Maselli, per andare avanti con questo governo. A proposito di andare avanti, ci sono un po' di ascoltatori che chiedono come potrebbe cambiare la politica estera francese in seno all'Unione Europea con questo nuovo governo. Parliamo di proiezione all'estero di Parigi. Maselli, ti aspetti qualche cambiamento di sorta o, come dicevi prima, la strada è tracciata e quindi non aspettiamoci grandi rivolgimenti? No, la strada è tracciata, e tra l'altro la politica estera è proprio una competenza esclusiva dell'Eliseo. C'è un ministro degli esteri, ovviamente, che però si confronta con il Presidente della Repubblica. Il primo ministro non ha assolutamente un'agenda di politica internazionale, viaggia relativamente poco, e quando viaggia in realtà poi va molto spesso in Africa, perché appunto lì ci sono una serie di interessi, soprattutto per i binazionali, cioè i francesi che hanno doppia nazionalità, certo, che vengono dalle colonie. Però in realtà la politica estera è del Presidente della Repubblica, e in realtà la politica estera di Macron sta vedendo una serie di progetti di lungo periodo che si stanno un po' concretizzando, perché appunto questa battaglia sul recovery fund, che probabilmente sarà terminata alla fine di quest'estate, noi speriamo tutti insomma che vada a buon fine, è comunque un grande investimento francese che c'è, sì, stato. Cioè Macron ha provato a convincere in tutti i modi la Germania, e sicuramente se si dovesse arrivare a un esito positivo se la intesterà. E più in generale Macron vorrebbe che ci fosse un'autonomia strategica da parte dell'Europa nei confronti dei due giganti che sono Stati Uniti e Cina, sicuramente anche questo è una cosa che viene sempre più ascoltata, sì, nelle altre capitali europee. Sì, ed è anche vero, mi permetto di aggiungere, Francesco Maselli, che anche su altri dossier Macron si è distinto, sto pensando al nucleare iraniano per esempio, con gli incontri avvenuti con Zarif, ministro degli esteri iraniano, proprio in territorio francese, per cercare di recuperare un ruolo dell'Europa che sicuramente è stato offuscato negli ultimi eventi. Qualcuno dirà, i detrattori, mai visto un ruolo dell'Europa in politica estera. Vedremo se questa trazione Macron riuscirà a restituire ruolo e dignità anche ai paesi dell'Unione Europea. Io ringrazio Francesco Maselli, lo ricordo, scrive sull'Inchiesta e anche su L'Opinion, le cronache italiane. Francesco, grazie mille, buona giornata. Grazie mille a voi, buona e buon lavoro. Un po' di commenti al 349-238-6666. Uomini di Sarkozy, un pizzico di sinistra, è un Macron di lotta e di governo che vuole sopire le lotte interne per bilanciare la forza di una Germania che ha i cordoni politici ed economici dell'Unione Europea. Così un ascoltatore che cerca di sintetizzare questo, l'abbiamo definito un po' un'operazione gattopardesca, di sintetizzare, dicevo, le ultime operazioni di Macron. E poi un ascoltatore che su Facebook, la Francia allo sbando, era ora come se quando va male al tuo vicino a te va bene, ma insomma allo sbando non vedo sulla base di cosa dire allo sbando, però opinioni le leggo qui, 349-238-6666, ma anche Facebook, nessun luogo lontano trattino Radio 24, Twitter, nessun luogo 24, ovvero Giampaz. Tra pochissimo chiuderemo la pagina francese. In particolare Maselli faceva anche riferimento agli interessi che saranno seguiti non da Macron ma più che altro da Jean Castex e il ministro degli esteri francese, dicevo, interessi francesi in territorio africano. Vi stiamo raccontando in questi mesi la crisi nel Sahel, la maggior parte dei paesi coinvolti sono ex colonie francesi, sono paesi francofoni, in molti la Francia ha grandi interessi economici dal sapore minerario, e c'è l'operazione Barkhane, che è quella che sta tentando di rintuzzare le tante anime benefiche jihadiste che stanno imperversando tra Mali, Niger e Burkina Faso. Adesso però è il momento di cambiare totalmente argomento, totalmente zona, e andare in Iraq. Siamo a Baghdad, nella zona di Siuna, un quartiere della media borghesia della zona est della città, a qualche chilometro dalle rive del Tigri. e poco distante da Karrada, il quartiere più multietnico della capitale irachena. Ieri notte, intorno alle 22, un uomo esce di casa e si dirige verso la sua auto, parcheggiata poco distante. L'uomo si è abituato a guardarsi le spalle negli ultimi mesi. Sul suo cellulare conserva messaggi di minacce che si stanno facendo sempre più frequenti. All'improvviso, da una strada vicina, compaiono due moto con tre persone a bordo. Le moto accelerano, due assalitori iniziano a sparare con mitra e pistole e feriscono l'uomo, che prova a fuggire e a rifugiarsi dietro un'auto. I killer smontano dalle moto, lo seguono, lo individuano e riprendono a sparare. Quando l'ambulanza e la polizia arriveranno, pochi minuti più tardi, a terra si conteranno oltre 40 bossoli. L'uomo rimasto ucciso, che giace sul selciato, è Hisham al-Hashimi, 47 anni, considerato uno dei massimi esperti di ISIS del mondo. Al-Hashimi, che da tempo collaborava con think tank internazionali, da Chatham House per esempio, dopo la caduta dello Stato Islamico aveva rivolto la sua attenzione alle milizie sciite finanziate dall'Iran, che agiscono da tempo indisturbate in Iraq. Ed è proprio tra le milizie ispirate da Teheran che adesso le autorità irachene stanno cercando gli assassini dello studioso. I messaggi di minaccia contenuti nel cellulare di al-Hashimi provenivano da Hezbollah e da altri gruppi sciiti. Questo è quello che è accaduto poche ore fa al ricercatore al-Hashimi. La presenza delle tante milizie filo-iraniane in Iraq è motivo di turbamento per gli analisti e anche di disordini politico e sociale per i tanti cittadini iracheni. E questa situazione dura da parecchio tempo, hanno preso posizione in tanti, lo ha fatto su tutti anche Iyad Allawi, che è una personalità politica molto importante in esilio, è stato primo ministro in interim nel governo iracheno tra il maggio 2004 e l'aprile del 2005, stiamo parlando del periodo immediatamente successivo all'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti. Sentite come definiva l'interferenza iraniana in Iraq. Vogliono controllare l'Iraq. Stanno interferendo su micro e macro livelli. L'Iraq è già un terreno di scontro. È teatro di scontro una volta per l'Iran e la Turchia, l'altra per Arabia Saudita e Iran, e tutta la comunità internazionale ne sarà risucchiata gradualmente. Il fatto doloroso e sanguinoso di cronaca è l'uccisione di questo ricercatore, poco noto forse al grande pubblico, ma svolgeva un lavoro molto interessante. Chi ha frequentato quelle zone lo conosceva molto molto bene, lo conosceva Martin Ciulov, inviato del Guardian, lo conoscevano tanti analisti, lo conosceva anche Daniele Raineri del Foglio. Buongiorno Daniele, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Grazie, buongiorno a voi. Allora Daniele, lungi da noi andare, come dire, a sfruculiare quello che è un ricordo doloroso eccetera, ma questo fatto di cronaca ci dà il desto per tornare su una situazione che desta molta molta preoccupazione, che è appunto la annosa presenza delle milizie sciite. Di questo parleremo con te, ti invito a stare con noi, facciamo una piccola pausa, sentiamo come va la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa seconda pagina di Nessun luogo è lontano, il racconto dell'omicidio di Hisham al-Hashimi, freddato a sangue freddo appunto da dei sicari. Gli hanno sparato 40 proiettili almeno, questi bossoli ritrovati. Eravamo a Baghdad, si interessava di milizie sciite filo iraniane che imperversano in Iraq. Daniele Raineri, redazione esteri del Foglio, hai consumato gli scarponi in quei luoghi, come riassumere il ruolo delle milizie filo Teheran in Iraq? Beh, diciamo, sono la lunga manus del potere di Teheran, impediscono all'Iraq di essere un paese normale. Noi continuiamo a pensare all'Iraq come un paese, diciamo, dove c'è l'occupazione americana, c'è la presenza occidentale che impedisce la normalità, e invece a impedire la normalità sono i vicini di casa, sono i vicini dell'Iran che pagano queste milizie, le armano e poi ordinano loro cosa fare. E quello che fanno sono principalmente, diciamo, due cose. La prima è eliminare i dissidenti, quelli che si oppongono a questa influenza. Hanno una lista di omicidi da compiere e vanno avanti uno dopo l'altro, eliminano questi oppositori. Io mi ricordo, per esempio, a gennaio hanno ucciso due giornalisti iracheni a Bastora che seguivano le manifestazioni, sì, dei giovani, manifestazioni che erano contro la presenza iraniana. Sì. La seconda cosa che fanno è quella di fare quegli attacchi sporadici con razzi e bombe contro le poche basi rimaste degli americani per fare pressione e per cacciarle via. Sì. Queste sono le attività di queste milizie. Il Shaman Hashimi, diciamo che lui si occupava soprattutto di Stato Islamico. Io l'avevo conosciuto nel 2015, lo seguivo perché aveva delle fonti ottime per quello che riguarda l'ISIS, che ricordiamo è sunnita, quindi diciamo non c'entra nulla con le milizie sciite. Sì. Però come ogni iracheno pensante, come ogni iracheno che ha uno sguardo critico su quello che succede nel proprio paese, anche il Shaman Hashimi era parecchio scosso da quello che facevano queste milizie. Che per esempio sono queste milizie che si sono occupate della repressione brutale di quei sit-in di giovani, sì, che occupavano il centro di Baghdad a dicembre, a gennaio. Sono milizie che sono arrivate di notte, hanno rapito molti manifestanti, hanno violentato le ragazze, hanno ucciso sangue freddo alcuni di questi rapiti. Insomma, sono milizie feroci. Sì. E una cosa da notare che mi ha molto colpito è che sono usciti due rivendicazioni false dell'ISIS per la morte di Shaman Hashimi. Cioè hanno fatto uscire due rivendicazioni che però non compaiono sui canali dell'ISIS. E questa praticamente è una dichiarazione di colpevolezza delle milizie, perché se l'ISIS non farebbe uscire delle finte rivendicazioni, certo, chi è che fa uscire delle finte rivendicazioni? Sono gli altri, certo, sono le milizie. Certo. La voce e l'analisi di Daniele Raineri, redazione esteri del Foglio, che ha lavorato, tuttora continua a lavorare in Iraq e conosce bene quelle dinamiche. Recentemente Daniele, il neo premier al-Kadhimi, aveva ordinato un raid ai danni dei dirigenti del Katib Hezbollah, poi sono stati rilasciati. Era stato un atto anche piuttosto perentorio, si pensava stessero pianificando uno di quei tanti attacchi di cui abbiamo dato conto molto spesso. Nella zona verde di Baghdad ci sono le ambasciate, su tutte quelle statunitensi evidentemente. Può avere la forza il neo premier al-Kadhimi di spezzare le reni a queste milizie? Ormai sono quasi sistemiche in questo Iraq fragilissimo, in cui la parte del leone lo fanno questi poteri informali, no? In qualche modo, mi sembra di intuire dalle tue parole, che traggono linfa proprio da Teheran. Ma è probabile che l'arrivo a maggio di questo nuovo primo ministro al-Kadhimi abbia portato alla morte di Shaman Hashimi, perché questo nuovo primo ministro è molto duro, o meglio, è più duro dei suoi predecessori con queste milizie sciite. Il Shaman Hashimi si sa che era in buoni contatti con questo primo ministro, lui era un analista, sì, con grandi contatti fra giornalisti internazionali, americani, europei. Il fatto che abbiano deciso di colpire lui a me sembra come un messaggio tipo: non ci fermeremo davanti a nulla, uccidiamo qualcuno e sappiamo che questo omicidio avrà un eco internazionale, sì, non come succede, diciamo, a Baghdad, sì, ci sono fatti di sangue, assassini. Il fatto che abbiano ucciso una persona e loro sapevano che poi il giorno dopo se ne sarebbe parlato, mi sembra un messaggio al primo ministro che la settimana scorsa ha ordinato dei raid contro le milizie sciite. Sì. Mi sembra quindi un po' una rappresaglia di peso, ecco. Sì, sì. Daniele Raineri ci sta aiutando a capire meglio i contorni, a meglio collocare la tragica morte di Hisham al-Hashimi, lo ricordo, ricercatore, analista, 47enne, consulente più volte del governo iracheno, profondo conoscitore delle dinamiche dello Stato Islamico, allo stesso tempo da cittadino iracheno, diciamo che denunciava, mal tollerava quella che era l'ingerenza tramite attori terzi di Teheran. Un po' di ascoltatori, 349-238-6666. Spiegatemi perché se l'Iran fa i suoi interessi fa male, se invece Israele, Turchia, Arabia, Francia o Stati Uniti va bene. Non l'abbiamo mai detto, gentile ascoltatore, anzi, francamente da questi microfoni abbiamo spesso denunciato un certo doppio pesismo della comunità internazionale rispetto a Iran e Arabia Saudita, per dirne una, i quali molto spesso attuano comportamenti molto molto simili, in un caso stigmatizzati a prescindere dall'altro lato, perché comodi alleati statunitensi, come dire, si, anche dal punto di vista dell'analisi si va più miti consigli. Ma è invece un ascoltatore che fa una domanda per te, Daniele Ranieri: oggi è ancora pensabile un Iraq senza faglie confessionali? Il nazionalismo laico iracheno è andato distrutto con l'apparato batista, secondo te è possibile una ricomposizione in qualche modo nel nome della secolarizzazione? Queste frizioni tra sunniti e sciiti sono ricomponibili? Ma sono ricomponibili, sì, perché a Baghdad alla fine dell'anno scorso è nato questo nuovo movimento di giovani, quindi una nuova generazione, tufa marcia delle condizioni del paese, che diceva io non sono sunnita, io non sono sciita, io non sono cristiano, io sono iracheno e voglio un paese nuovo, voglio un paese dove insomma si viva a prescindere dalla propria professione di fede, dalla propria fede religiosa, e dove non conti come nel passato. Questi sono la generazione che andrà a sostituire le altre. Sì. Il problema è che queste milizie sciite, e prima l'ISIS sunnita, cercano con la violenza di impedire che avvenga questa, diciamo, perdita di significato. Sì. E quindi quando si dice anche l'America e la Francia intervengono, beh, c'è da dire che la Francia non fa uccidere nessuno per fermare la progressiva laicizzazione dell'Iraq, anzi probabilmente sarebbe all'opposto. Certo. E quindi mi sembra più grave, diciamo, questa influenza dell'Iran. Sì, è chiarissimo. Daniele Raineri, redazione esteri del Foglio, che ringrazio. Daniele, grazie mille, alla prossima. Allora, piccola pausa, Roberta Pisani, se sei d'accordo, andiamo a sentire le strade italiane. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano vi porterà proprio a Teheran. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa lunga seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, dopo la morte, il brutale assassinio di Hisham al-Hashimi, ricercatore e consulente governativo iracheno, avvenuto a poche ore fa a Baghdad, continuiamo a interrogarci, visto che tutti gli indizi portano a Teheran, o quantomeno alle milizie filo iraniane sciite che avrebbero compiuto questo tragico gesto. Ci interroghiamo, dicevo, su quella che è in più generale, mettiamo il grand'angolo, l'influenza iraniana in Iraq, e lo facciamo con ricercatrice al RUSI di Londra e al King's College, sempre di Londra, Anisè Bassiri Tabrizi. Buongiorno Tabrizi, ben ritrovata qui a Nessun Luogo Lontano. Salve, grazie mille. Allora, Anisè Tabrizi, la proiezione iraniana, come ricordava anche un ascoltatore, è storicamente, almeno nella storia recente, fatta attraverso attori terzi. Quindi una proiezione che in tutto il Medio Oriente, fino al Golfo Persico, il Medio Oriente allargato, mettiamola così, si avvale di attori terzi. Quali sono più in generale però gli interessi iraniani a avere un Iraq fragile, un Iraq che non riesce a sfornare governi degni di questo nome, governi che non siano contestati dai giovani di Baghdad e non solo? Quanto giova la fragilità irachena al regime di Teheran? Diciamo che quella è indirettamente la direzione politica dell'Iran: vedere un Iraq non dominante, un Iraq che non pone una minaccia di sicurezza, una minaccia esistenziale simile a quello che ha posto durante soprattutto gli anni della guerra, all'inizio della instaurazione della Repubblica Islamica nel 1980, come tutti sapranno, c'è stata una guerra di ben 8 anni tra l'Iran e l'Iraq, e tutta la politica iraniana successiva a questa guerra nel paese è stata determinata a far sì che ci siano scarse probabilità di ripetere la stessa situazione, quindi di avere un governo o uno Stato talmente forte in Iraq da poter presentare una minaccia di sicurezza, non necessariamente per quanto riguarda una guerra ulteriore, ma comunque per diciamo la sicurezza dei confini e della continuazione dell'esistenza della Repubblica Islamica. Quindi questo ha fatto sì che l'Iran cercasse di mantenere un'influenza tramite dei governi fragili e quindi una presenza di influenze sia economiche che politiche che di sicurezza all'interno della società, dell'economia e dei diciamo centri politici e di sicurezza iracheni soprattutto dal 2003 a questa parte. Ecco, mi sembra di capire dalle sue parole, Anisè Bassiri Tabrizi, lo ricordo, lavora al RUSI ed è anche visiting fellow, come si dice in Gran Bretagna, al War Studies King's College, sempre di Londra. Da un lato le milizie vere e proprie sono il braccio armato di questa politica estera che si concretizza a volte, se sarà confermato questo assassino mirato, in maniera piuttosto cruenta e sicuramente tragica, altre volte invece con infiltrazioni di tipo più prettamente politico. Poi però è accaduto e sta accadendo nelle ultime settimane e mesi qualcosa di molto più, come dire, istituzionale. Faccio riferimento, ed è notizia di pochissimo tempo fa, il ringraziamento pubblico del presidente venezuelano Nicolás Maduro al suo omologo Hassan Rouhani per aver inviato a Caracas i vari cargo di petrolio, nonché una serie di aiuti umanitari ed economici. Ecco, quello è un po' un modo diverso di muoversi di Teheran nello scacchiere mondiale, no? Qualcosa di più istituzionale, più diplomatico, più visibile. Sì, assolutamente, ma io non escluderei che lo stesso tipo di politica determina anche in un certo senso la politica iraniana in Iraq. Diciamo la caratteristica essenziale della politica iraniana in Iraq è che ha vari canali di influenza. Ci sono quelli dei gruppi armati, ci sono quelli delle fortissime relazioni economiche tra i due paesi, ma ci sono anche i canali istituzionali. Non dobbiamo dimenticare che comunque, per quanto ci sia una forte critica nei confronti dell'influenza iraniana, soprattutto nei confronti dei gruppi armati in Iraq, c'è anche un riconoscimento da parte degli ufficiali iracheni stessi della necessità di mantenere buone relazioni con i vicini iraniani, e abbiamo visto nei discorsi ufficiali degli ufficiali iracheni quando sono stati messi sotto pressione dagli Stati Uniti per quanto riguarda le sanzioni, per quanto riguarda degli scontri negli ultimi mesi, soprattutto da novembre a questa parte, che loro hanno tutti difeso comunque la necessità di mantenere buone relazioni istituzionali con l'Iran. Sì, un po' una doppia anima quella di Teheran in proiezione all'estero, però Tabrizi, è anche vero una cosa, che al momento Teheran ha serissimi problemi al suo interno, di una fetta della società civile che protesta per le condizioni economiche, per la repressione e la compressione dei diritti, il Covid-19 ha colpito duramente. Stupisce un po' questa doppia marcia di Teheran, potenza egemonica regionale o quantomeno aspira ad esserlo, e allo stesso tempo grande fragilità interna. Secondo me sembra una contraddizione, ma di fatto è il modo migliore dal punto di vista dei centri di potere di Teheran per garantire quella che è la sopravvivenza del regime, se vogliamo. Nel momento in cui si vede una debolezza, che sia interna, che sia internazionale, di minaccia, di sicurezza o di stabilità del regime, quello che succede è che si cerca di proiettare con maggior forza quanto il regime è stabile. Lo si fa internamente con repressioni dei movimenti e delle proteste, lo si fa esternamente con maggiore sostegno, se non economico, almeno a livello logistico dei gruppi armati, e maggiore ricerca della proiezione nella regione per determinare soprattutto e per lanciare un messaggio a quello che è il nemico ufficiale e maggiore dell'Iran al momento, che sono gli Stati Uniti, che l'Iran è ancora forte ed è in grado di mantenere la propria importanza regionale e domestica nonostante la pressione, le sanzioni e le situazioni economiche e domestiche che abbiamo visto negli ultimi mesi. E in effetti a ben vedere una ricetta forse vecchia tanto quanto la grande politica internazionale. Grazie mille Anisè Bassiri Tabrizi, Del Rusi da Londra, grazie per essere stata con noi. Manca un minutello, allora al 349-238-6666 sono arrivati un po' di messaggi interessanti che provo a sintetizzare. Stupisce che milizie facenti capo all'Iran si comportino in modo tanto feroce, scrive un ascoltatore, Alessandro. In particolare la svolta anti-iraniana di Trump ha inasprito l'atteggiamento iraniano nella regione, laddove il presidente Obama aveva iniziato un dialogo importante per smorzarne ambizioni e atteggiamenti. Immagino Alessandro faccia riferimento anche all'accordo sul nucleare 2015, dal quale l'amministrazione Trump si è ritirata, poi progressivamente anche l'Iran. E per chiudere in qualche modo il cerchio di questa puntata in Nessun Luogo Lontano, la Francia con Macron sta cercando di giocare un nuovo ruolo, un po' per la Francia, un po' per l'Unione Europea. Torneremo su questo tema, lo faremo di sicuro, come è sicuro, come ogni giorno, che udirete a un certo punto questo. Che segna la chiusura anche di questo viaggio. E ringraziamenti a tutti voi per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra. L'appuntamento è per domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.